2024 di Enrico Pagliarini. La puntata del 19 gennaio 2013, benvenuti o bentornati a 2024, potete chiamarci in diretta al nostro numero verde 800 24 0024, soprattutto per parlare di Wi-Fi e connettività in mobilità di altro tipo, Wi-Fi pubblico e di connessioni mobili, ne parleremo nella seconda parte. Oltre al nostro numero verde potete contattarci via Twitter o via Facebook o via email o anche via SMS, vi ricorderò tutti i dettagli, i numeri, le sigle, gli indirizzi nel corso della nostra puntata. Saluto Pietro Lacorte che si occupa della parte tecnica. Ciao Pietro, benvenuto, da un po' che non ci vediamo in regia. E saluto anche Giorgio De Luca che ci assiste in regia. Giorgio De Luca è quello della donna di Giorgio. L'avete trovata Giorgio? Non si è ancora trovata. Come si dice? Hashtag cancelletto la donna di Giorgio. Potete trovare, cercare su Twitter, se non siete a conoscenza di questo fenomeno che è stato creato da Giorgio e da tutta, da una parte della redazione di Radio 24, beh, seguitelo perché è anche una scuola per capire come vanno utilizzati i social network, visto che ci sono molti che si spacciano per esperti e invece altri che non fanno gli esperti, ma poi in realtà nei fatti sono esperti di social network. Basta anche usarli a volte. Dunque, riparliamo delle interferenze che ci saranno su alcuni canali della TV digitale terrestre in alcune zone d'Italia quando verranno accesi i primi impianti della telefonia mobile 4G su una frequenza, quella degli 800 MHz. Ne abbiamo parlato approfonditamente in una puntata di 2024 di qualche settimana fa, quindi se volete approfondire il tema, beh, andate a riprendere quella puntata e vi raccontiamo tutto. Allora, succederà questo. Verranno accesi gli impianti di telefonia mobile in 4G in alcune zone d'Italia, poi gradualmente in tutta Italia, anche su questa frequenza degli 800 MHz, che è la frequenza più preziosa, più interessante, per vari motivi che poi spiegheremo nelle prossime settimane, e potremmo dire con l'accensione di questi impianti si comincia a fare sul serio. Però c'è un problema, perché su una parte di queste frequenze ci saranno delle interferenze con la TV digitale, almeno con alcuni canali della TV digitale. Il fenomeno dovrebbe interessare circa 1 milione di famiglie, ma sono stime perché solo quando si accende l'impianto si capisce poi cosa succede. Allora, la Fondazione Ugo Bordoni, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, ha aperto pochi giorni fa un portale su internet che si chiama Help Interferenze, quindi sta Aiuto Interferenze, che permetterà ai cittadini di segnalare i disservizi. Se il problema è dovuto all'accensione di un nuovo impianto di telefonia, potrebbe essere o inviato un tecnico a casa, quindi un antennista specializzato che analizzerà il problema gratuitamente, oppure potrebbe essere inviato un filtro da inserire tra l'antenna e il televisore. Attenzione, non fate i furbi, perché poi ci sono dei controlli. Se voi chiamate perché avete un problema, ma poi fatta una verifica si capisce che lì non è stato acceso nessun impianto 4G, beh, vuol dire che uno sta chiamando per altri motivi. I costi di questi interventi saranno a carico di tre operatori: di Wind, che ha i problemi maggiori perché ha una parte più sporca di frequenze, Telecom e Vodafone. 3 non ha acquistato la licenza per gli 800 MHz, quindi non è coinvolta in tutta questa faccenda. Allora, questa mattina ho parlato con la Fondazione Bordoni, che mi ha spiegato che l'accordo definitivo, quindi le firme definitive per tutto questo sistema di intervento, verranno fatte con gli operatori nei prossimi giorni, quindi poi quando le firme ci saranno e sarà tutto concluso, vi spiegheremo anche poi più nel dettaglio come funzionerà tutto questo sistema di interventi. Adesso riparliamo anche del Consumer Electronics Show. Sapete che la settimana scorsa si è conclusa questa mega fiera a Las Vegas, l'abbiamo seguita in diretta dal vivo anche con una puntata speciale che abbiamo realizzato da Las Vegas. Il Consumer Electronics Show è anche l'occasione per incontrare persone che o girano il mondo e non si riescono mai ad intercettare, a volte, anzi spesso io preferisco avere le persone davanti al microfono, oltre che si capisce tutto quello che dicono, anche più bello avere le persone davanti ad un microfono, si interagisce meglio, ma a volte sono persone che vivono negli Stati Uniti e le si incontrano proprio in questi eventi. Allora, adesso vi facciamo sentire un'intervista che ho realizzato in uno dei grandi padiglioni della fiera che si chiamava iLounge, dove la I sta per la I che si mette davanti dopo che è nato l'iPhone, è nato una serie, un settore intero che potremmo dire è esploso negli ultimi 5 anni con la I davanti, quello degli accessori, di tutti gli strumenti che si collegano allo smartphone per fare qualcosa di specifico sfruttando la capacità di calcolo dello smartphone. In questo settore, soprattutto negli ultimi tempi, vediamo crescere, c'è stata una crescita incredibile della cosiddetta e-health, cioè la sanità digitale. Ci sono strumenti per misurare la pressione che vanno magari attaccati allo smartphone, ma anche di questo abbiamo parlato e sicuramente riparleremo a 2024. Ma le idee e le applicazioni sono, potremmo dire, una funzione della fantasia e della capacità di innovare degli imprenditori, come quella che ha avuto qualche anno fa Enrico Iori, che è fondatore della IK Multimedia, detta all'italiana IK Multimedia, un'azienda italiana, e scopriremo anche delle cose molto interessanti, soprattutto per la parte produttiva hardware di questa azienda che fa applicazioni e strumenti per i musicisti. Sentiamo che cosa ci ha raccontato Iori. Diciamo oggi dispositivi con un computer, che sia esso un computer vero e proprio o dispositivi che hanno una CPU come un telefono, possono fare tutto quello che una volta si faceva in uno studio. Quindi un chitarrista ha a disposizione per esempio degli amplificatori e degli effetti virtuali che processano il suono della chitarra attraverso un accessorio che per collegare la chitarra. Un tastierista lo usa come un modulo di generazione sonora, collega una tastiera e il computer o lo smartphone o il tablet genera il suono delle note. Un ingegnere può utilizzarlo al posto di un processore esterno in software, può equalizzare, può comprimere e può fare trattamento sonoro. Cioè, possiamo dire che con uno smartphone o con un tablet un musicista può far tutto? Un musicista può fare una composizione, una canzone, la può registrare partendo da zero e la può mixare e la può chiudere e poi la pubblica. Ovviamente. Speriamo sia un successo, come potrebbe dire. Senti, ci spieghi come l'arrivo, vabbè, sicuramente dall'iPhone, perché da quando è nato l'iPhone a voi sono venute un po' di idee, poi magari ce le racconti, però come l'arrivo degli smartphone e quindi del mondo delle applicazioni eccetera eccetera ha cambiato un po' il vostro business? Intanto il musicista ha sempre amato oggetti che si può portare con sé e suonare dovunque, quindi il fattore portabilità degli smartphone è vincente. Già esistevano tentativi, tutti i vari dispositivi musicali, ma parliamo anche di dispositivi tradizionali, sono sempre esistiti in forme portabili. Ecco, quindi questa è stata l'opportunità, diciamo, delle piattaforme mobili, piattaforme che hai sempre con te. Qui non devi ricordarti di avere lo studio, di tornare, e hai sempre con te. Questa è la prima caratteristica che ha permesso, ovviamente c'erano anche i presupposti tecnologici. Cioè, perché voi facevate già software? Facevamo già software, lo facevamo ovviamente anche per il mondo Mac. Il mondo Mac è sempre stato la piattaforma dei creativi, non solo grafici così, ma anche musicisti, e quindi è stato come un'evoluzione naturale. Però la portabilità, il fatto di avere sempre il dispositivo nella tua tasca, di poter suonare comunque, dovunque, hai un'idea, la registri, poi dopo la elabori successivamente, questo è un vantaggio che ce l'hanno le piattaforme mobili. Sì. Quando, visto che voi avete ricreato e reinventato la vostra azienda proprio basandovi sugli smartphone e sulle app, quando è uscito l'iPhone, che cosa hai pensato tu dopo qualche mese? Noi avevamo già stavamo già pensando a fare cose per piattaforme mobili, ecco. Quando è uscito l'iPhone, il vantaggio è stato che c'erano tutte le tecnologie che esistevano anche sul Macintosh, quindi è stato come un'evoluzione naturale. Noi abbiamo cominciato con un software per DJ o per poter comporre musica in maniera facile, e poi siamo partiti in maniera pesante con i programmi per chitarristi e gli accessori per collegare la chitarra. Senti, che è una nostra specialità. Noi lavoriamo con aziende tipo Fender, siamo i produttori ufficiali di software per questa un'azienda iconica americana di produzione di amplificatori di chitarre. Lavoriamo con un sacco di manufacturer di amplificatori che ci permettono di modellare in virtuale i loro amplificatori sulle piattaforme mobili o di computer. Quindi abbiamo lavorato con artisti come Slash oppure con le stage Jimi Hendrix per ricreare il loro setup di effetti sul computer o sullo smartphone. Quindi questo per noi eravamo già esperti sul computer, l'abbiamo portato in maniera pesante sulle piattaforme mobili. Senti, ci fai un esempio di dei prodotti che fate, e quindi dalla parte hardware e dalla parte software, un esempio per farci capire che cosa fate voi, ma soprattutto che possibilità ha poi un musicista. Ecco, noi serviamo tutte le tipologie di musicisti, quindi se sei un chitarrista noi forniamo un accessorio che ti permette di collegare la tua chitarra all'iPhone e di usare per esempio l'iPhone come unità di processo del suono. Cioè, dopodiché finito, cioè l'amplifichi va... Gli amplificatori e gli effetti sono nell'applicazione, puoi anche registrare, puoi registrare in multitraccia, puoi suonare, fare diciamo practice, fare le prove o puoi comporre. Questo per chitarristi. Facciamo la stessa cosa per cantanti, quindi abbiamo microfoni che puoi collegare all'iPhone e puoi trattare la tua voce, fare armonie, fare cori, usarlo come un dispositivo per di trattamento del suono dal vivo. Facciamo la stessa cosa per tastieristi, facciamo tastiere o interfacce MIDI, tastiere che si collegano all'iPhone oppure interfacce MIDI che ti permettono di collegare la tua tastiera preesistente all'iPhone o all'iPad, e facciamo programmi di generazione sonora come Sample Tank, che è un programma di suoni, di tutti i tipi di suoni generati nel computer, batterie, piani, string, eccetera. Quindi comunque i musicisti rimangono il vostro core business? Il nostro core business sono i musicisti. Molte applicazioni audio, come quella della registrazione, questo è un esempio non musicistico, serviamo anche quei tipi di applicazioni lì. Se tu devi registrare una lettura, uno studio, una conferenza, un'intervista, abbiamo dispositivi anche per questo tipo di... Però tutto quello che ruota intorno alla musica audio, questo è dove siamo specializzati. Sì. Senti, le vostre applicazioni sono nate, e comunque i vostri strumenti sono nati per iPhone, per iPad, per il mondo Apple. Vi piace particolarmente? C'è un motivo? Tu ci hai detto che è sempre stato storicamente il mondo dei creativi, quindi anche della musica. Però, visto che oggi stiamo parlando di ecosistemi che si stanno trasformando, quindi Android, Windows Phone, poi addirittura oggi si parla di altri che si vogliono presentare sul mercato, come cambia il vostro approccio di fronte a questo mondo che si trasforma? Allora, come diciamo nel computer, noi abbiamo sempre supportato Macintosh, ma anche Windows e PC. Abbiamo cominciato proprio da questa fiera, abbiamo annunciato la prima applicazione per Android. La piattaforma non è esattamente comparabile alla piattaforma Apple per un problema specifico dei musicisti, quindi non è possibile fare tutto quello che si fa su iOS su Android, ma si diciamo può. Diciamo anche perché. Così. Il motivo è la latenza. La latenza che si ottiene, che è il tempo che è impiegato per inserire un segnale, processarlo e farlo uscire, con un iPhone o un iPad questo tempo è così breve che un musicista non percepisce il ritardo che inevitabilmente c'è. Quindi lo puoi usare anche sul palco mentre suoni dal vivo. Lo puoi usare sul palco, sì, e sì. Ti hai la stessa impressione di uno strumento che puoi suonare dal vivo. Sull'Android al momento questi tipi di applicazioni non sono possibili. Puoi registrare, puoi fare elaborazioni non in tempo reale, ma tutto quello che è real time playing, cioè suonare dal vivo in tempo reale con gli effetti applicati in tempo reale o con i suoni generati in tempo reale, non siamo ancora pronti su quella piattaforma. Bene, riprenderemo tra poco a sentire la voce di Enrico Iori, fondatore di IK Multimedia. Nella seconda parte di questa intervista c'è una cosa interessante. Beh, già interessante l'idea che ha avuto questa azienda italiana, mi piace sottolineare che è un'azienda italiana che esporta gran parte della propria produzione, ma tra poco parleremo di un aspetto importante nel mondo della tecnologia, cioè la produzione dell'hardware. Tutti pensano che le cose vengano prodotte, come del resto effettivamente spesso è, in Cina o in Asia. Ne riparliamo tra un minuto. 2024. Potete comunicare con 2024 attraverso il nostro numero verde 800240024. Parleremo nella seconda parte, dopo il GR delle 16, di Wi-Fi, soprattutto in ambito pubblico, e di connettività in mobilità tramite le reti 3G e in prospettiva anche le reti 4G. Dicevo, oltre al nostro numero verde potete utilizzare anche gli SMS 349-238-6666, Facebook cercando la pagina di 2024 o anche Twitter @ e _ Pagliarini, oppure anche l'account di 2024, è molto semplice, cercatelo scrivendo in cifra 2024. Stiamo parlando con Enrico Iori, fondatore di IK Multimedia, che è un esempio, un buon esempio di come nato un prodotto come iPhone, ma poi dopo tutti gli altri smartphone, si possa sfruttare questa nuova tecnologia, questo nuovo prodotto, per creare altre cose attorno. E in questo caso stiamo parlando di prodotti per i musicisti sostanzialmente, ma anche ci sono colleghi che utilizzano questi prodotti anche per registrare interviste, ad esempio, l'abbiamo fatto anche noi in passato. Un aspetto importante è quello della produzione. Dove vengono prodotti questi strumenti? Uno potrebbe pensare in Asia. Enrico Iori. Noi lavoriamo, facciamo una grossa parte dei nostri accessori, sono fatti, sono prodotti in Italia con un'unità produttiva che abbiamo a Modena, una piccola fabbrica. Abbiamo cominciato a fare come fanno probabilmente la maggior parte delle aziende, andare in Far East, in Asia a produrre, però abbiamo visto che si riesce ancora a produrre in Italia a costi tollerabili, e se uno ha il coraggio riesce. Che è importante, perché un conto è fare software, quello lo puoi fare in tutto il mondo, no? Un conto è fare prodotti, perché ad esempio un vostro prodotto, quanto, giusto per farci capire, quanto è grande e quanto costa? Allora, noi facciamo tutti i prodotti che sono in una fascia di prezzo sotto i $99.75. Sono prodotti che ovviamente devono essere pensati, industrializzati per quei tipi di prezzi. Considerare che noi veniamo dalla Emilia Romagna, la zona di Modena, che è una zona che di tradizione ha sempre avuto molte eccellenze: elettronica, plastica, materiali. Quindi, per esempio, c'è tutto un substrato di aziende medio-piccole che fanno cose a Modena, che farle fare poi a dei cinesi alla stessa qualità, alla stessa velocità, così non è tanto facile. Quindi siamo stati fortunati anche a venire da un comprensorio industriale di un certo tipo, che ovviamente abbiamo utilizzato. Quindi noi montiamo, per esempio, tutta l'elettronica la montiamo in casa, facciamo anche tutta la parte di plastica. L'Italia ha una tradizione di eccellenza di stampi di plastica, di stampatori, di tecnologie di stampaggio, tutta quella parte di oggetti lì sono fatti in Italia. Senti, allarghiamo però lo sguardo, al di là dell'Italia, i vostri mercati più interessanti quali sono? Allora, noi l'IK Multimedia vende il 95% del suo fatturato all'estero. Siamo molto forti negli Stati Uniti e in tutto il mercato americano, dove abbiamo un'azienda. Vendiamo in tutta Europa, siamo anche forti in Giappone, nel Far East, da Singapore, Hong Kong. L'IK Multimedia ha sempre cercato abbiamo sempre guardato molto ai mercati esteri. Abbiamo una business unit anche in Giappone, abbiamo il sito tradotto in cinese e in giapponese per questi clienti, non l'abbiamo tradotto in italiano purtroppo, però... siete un'azienda italiana che non ha il sito in italiano. Il sito in italiano, lo so, è questo è un peccato che dovremmo cercare di risolvere. Sì. Beh, uno potrebbe dire dovrebbe essere così, anzi a volte mi stupisco delle aziende italiane che non hanno il sito tradotto in inglese. Beh, questo è un buon esempio di Made in Italy che funziona, è anche un buon esempio di come non sia vero sempre che i cinesi sono superiori, soprattutto nella parte hardware. Era un paio di anni che aspettavo di incontrare Enrico Iori, che abbiamo appunto incontrato al Consumer Electronics Show a Las Vegas. Vi ricordo due appuntamenti per le prossime settimane. Il 24 verrà svelato il vincitore del premio messo a disposizione da ING per la startup più innovativa e interessante tra le oltre 500 che hanno partecipato al concorso Prendi parte al cambiamento. Ci sono 100.000 euro per questa startup. Lunedì 28 gennaio sarà invece la volta dei vincitori del premio WWW del Sole 24 Ore. Digital News. Telecom Italia ha lanciato un'offerta per archiviare i propri file in rete chiamata TE, sta a Telecom Italia, naturalmente cloud, anche se il cloud è molto di più, non è solo archiviazione di file in rete. Comunque l'abbonamento al servizio è di 6,9 euro al mese per 200 GB di memoria con cifratura dei file. Questo è un servizio dedicato ai consumatori finali, non è business. Il prezzo è assolutamente buono perché per lo stesso spazio il canone ad esempio di Dropbox è di 20 dollari al mese, che al cambio attuale sono circa 15 euro, poco meno costa Mozi, che è un altro servizio molto molto popolare. E invece sono 50 i giga di spazio che promette di regalare Mega, il nuovo sito di archiviazione online di Kim.com, il creatore di Mega Upload. A questo punto uno dice, però chi si fida di Kim.com anche se mi dà 50 giga? Allora, il lancio di Mega è previsto per questa sera poco prima delle 19, mentre è tutt'altro che terminata la complessa vicenda che ha portato alla chiusura di Mega Upload e all'arresto con un'operazione spettacolare coordinata dalla polizia neozelandese, l'FBI, di Kim.com. Insomma, un aspetto piuttosto complicato la vicenda giudiziaria di questo caso. Parliamo di Tiscali, che ha lanciato la nuova versione di Induna, l'applicazione di messaggistica istantanea che permette di chiamare gratis su web, in promozione tra l'altro anche ai numeri fissi nazionali, di interagire come su Twitter, e ha una novità molto interessante, c'è una nuova funzione di live stream che quindi permette di creare un canale video o un canale audio e di trasmettere in diretta dal proprio smartphone a tutti i nostri contatti. Molto interessante. In pratica Induna integra tante funzioni che oggi si possono fare con differenti software, come Skype, Viber, WhatsApp, eccetera, eccetera. Parliamo ancora di Telecom Italia, perché in settimana ha presentato la nuova offerta tariffaria, anche se non parliamo spesso di tariffe perché questo non è il nostro mestiere, però visto che è la prima volta che un grande operatore di telecomunicazioni unifica fisso e mobile, lo diciamo, dal 1 aprile chiamare col telefono di casa i numeri fissi e i cellulari costerà sempre 5 centesimi al minuto. Si risparmia naturalmente sui cellulari, cresce il prezzo invece della telefonia fissa. Cambierà anche il canone base, purtroppo, che sarà di 17,4 euro. Poi uno fa i propri calcoli, va su internet, vede quali sono le offerte più conveniente. Allora, alcuni utenti di lingua inglese di Facebook hanno cominciato a sperimentare la versione aggiornata del motore di ricerca presentato dal social network più famoso e più grande al mondo. Facebook Graph Search permette di fare ricerche sui contenuti pubblicati dagli utenti e dagli amici su Facebook. Ricerche del tipo cerca un ristorante qui vicino tra quelli che piacciono ai miei amici. Sicuramente interessante. Una notizia che riguarda Nokia, e così concludiamo le Digital News. Abbiamo detto più volte che nel 2013 vedremo uno sviluppo consistente della stampa 3D, anche verso il basso, con sistemi a basso costo alla portata di tutti. Allora, sulla scia di questa diffusione, Nokia ha rilasciato i file che contengono le istruzioni e anche i consigli sui materiali da usare per stampare, cioè creare una cover per lo smartphone Lumia 820. Bene, così concludiamo. Tra poco ci sono le notizie di GR24. Vi aspettiamo tra poco per la nostra seconda parte. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo la seconda parte di 2024. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta: 800 24 00 24. Io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Pietro Lacorte che si occupa della parte tecnica e Giorgio De Luca che ci aiuta in redazione. Dunque, in questa seconda parte parleremo di Wi-Fi, soprattutto in ambito pubblico, e anche di connettività in mobilità, intesa come connettività di terza e in prospettiva di quarta generazione. Saluto Simone Zanardi, bentornato Simone. Ciao Enrico, buongiorno agli ascoltatori. Uno potrebbe domandarsi, che è un po' la domanda dalla quale vogliamo partire oggi, per quale motivo oggi serve ancora il Wi-Fi, visto che è un'esigenza quasi irrinunciabile avere un piano dati per lo smartphone o per il tablet. Perché quando siamo in giro, se non abbiamo un piano dati, rimaniamo a secco con il nostro smartphone o con il nostro tablet. Sì, diciamo che sicuramente il piano dati oggi presso l'operatore mobile è pressoché imprescindibile per chiunque voglia utilizzare lo smartphone o il tablet al pieno delle sue potenzialità. Quindi il Wi-Fi non è certo una sostituzione del piano dati, che ormai di fatto diventa mandatorio, ma è un buon complemento per diversi motivi. Il primo, più semplice da spiegare, perché quando ci si reca all'estero molto spesso il piano non contempla una connettività a prezzo fisso in roaming, quindi sì, all'estero ad esempio c'è questo problema. Viceversa, visto che siamo in Italia, il wifi pubblico in Italia può servire per gli stranieri, poi ne parleremo. Certo. Poi perché comunque c'è un problema di mancanza di copertura flat, nel senso comunque tutti gli abbonamenti, perlomeno quelli a tariffa base, hanno un limite di un giga, che è comunque molto poco per le applicazioni che già oggi viviamo ma che poi si prospettano in futuro. Si parla costantemente di raddoppio del traffico mobile ogni anno, e non solo in senso di cifra globale ma anche della singola persona, come utilizza il proprio telefono anche per trasmissioni. Per esempio, il classico esempio è lo streaming multimediale di una radio, sì, come Radio 24, o di musica, tutti i servizi di streaming musicale. Fai pure il tuo esempio. Allora, Simone, esatto, Zanardi arriva tutti i giorni a Milano e io voglio sentirmi Radio 24. Esatto. Ed è anche per questo che io ti invito, perché sei un ascoltatore fedele di Radio 24, oltre che esperto di tecnologia. Ipotizzando di non disporre di un telefono con radio FM o di non avere copertura radio in quel momento, potrei rivolgermi alla trasmissione streaming della nostra radio, applicazione. Esatto. E tu lo fai. Esattamente. Il piccolo problema è che se io comincio a sentirmela un'ora la mattina, un'ora la sera, sono due ore al giorno. Adesso, non conoscendo esattamente i vostri parametri di codifica, comunque diciamo i megabyte vanno via abbastanza spediti al giorno, e si rischia che neanche a metà mese il mio gigabyte di plafond mensile, sì, è già finito. Sì, sì, comunque se non è un giga sono due o tre. Sì, comunque, grosso diciamo, modo, esatto, gli abbonamenti girano su questi, sì, poi se uno paga di più naturalmente ha, certo, di adesso più. Per esempio le tariffe 4G vanno sui 15 giga. Però, sì, sì, tra l'altro questo ha una giustificazione, ma anche di questo parleremo. Adesso, giusto per introdurre l'argomento, questo è un altro dei motivi per cui avere un'alternativa al proprio piano dati in mobilità ha senso. Sì, e poi c'è quel altro problema delle prestazioni intese come prestazioni in relazione al traffico di queste reti, perché quando noi citiamo i parametri di velocità massima teorica e parliamo di 42 megabit al secondo per quanto riguarda il 3G attuale, parliamo in prospettiva di 300 megabit per LTE o 4G, e adesso le prime offerte sono sui 70 megabit, stiamo parlando di una velocità che è puramente teorica e col passare del tempo è destinata a diventare sempre più teorica, nel senso che oggi se io ho il privilegio di disporre già di un abbonamento 4G, per esempio, ho delle reti molto scariche e di conseguenza probabilmente riesco a navigare in modo sicuramente ottimale. Quando poi le reti si affollano succede quello che è già successo per il 3G, in cui in città come Milano, in centro, a certi orari, non solo i 40 megabit sono una chimera, ma anche i 10 megabit sono una chimera. E anche i 4. Diciamo. Saluto Giovanni Guerri, che è amministratore delegato e presidente di Guglielmo. Benvenuto. Benvenuto, saluto a tutti. Vi chiamate Guglielmo in onore di Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi, allora, certo. Voi vi occupate di tecnologie wireless, però in definitiva di Wi-Fi, giusto? Beh, quasi esclusivamente. La nostra attività consiste proprio nella creazione delle aree Wi-Fi pubbliche, in aree sia pubbliche che private, quindi è assolutamente il nostro lavoro. Quindi piazze, alberghi, aeroporti, aziende, eccetera, eccetera. Allora, la provocazione con la quale io ho iniziato è puramente una provocazione, perché anche io stesso, allora, in questo momento ho un tablet collegato in Wi-Fi con la rete interna di Radio 24. Nelle settimane scorse ho usato Wi-Fi negli alberghi, addirittura mi piace sempre citare questo perché è uno dei pochi luoghi dove ancora non è disponibile internet, sono gli aeroplani, ma negli Stati Uniti e in Europa solo la Lufthansa lo fa, sui voli intercontinentali c'è Wi-Fi a bordo e quindi anche in quel caso è stato utilizzato. Ci sono vari motivi, insomma, per cui si utilizza Wi-Fi. Sicuramente però c'è una scomodità che frena un po' lo sviluppo. Perché? Ma sì, diciamo che innanzitutto parlando di Wi-Fi, delle nuove tecnologie wireless, la storia ci insegna negli ultimi 10 anni tutte le volte che un protocollo wireless si è affacciato sul mercato, e quindi parlo dell'UMTS prima, WiMAX, poi nuovo 3G, si è sempre sancita la morte del Wi-Fi, forse in maniera un po' troppo prematura, no? Il Wi-Fi ne è sempre uscito rafforzato invece, e in questi anni è estremamente popolare. La vera differenza rispetto al passato è che adesso con il 4G credo che ci sia anche da parte degli operatori mobili la consapevolezza che il Wi-Fi è veramente uno strumento complementare, ovvero, come si diceva giustamente prima, in caso di sovraccarico della rete è lo strumento perfettamente complementare al data offloading, tecnicamente detto. È chiaro che però dal punto di vista della user experience è necessario che l'accesso alla rete Wi-Fi sia assolutamente trasparente, come avviene nel caso della rete mobile. Sì, perché uno dei grandi vantaggi è che se io ho già il mio bel abbonamento, la mia ricaricabile che mi connette al 3G, mi sposto, non devo fare una nuova connessione, riconnettere. Beh, anche banalmente quando io vengo in azienda devo mettere per motivi di sicurezza la mia password, eccetera, eccetera. Questo sicuramente vincola il Wi-Fi. Tra l'altro, approfitto Guerri per farle dire e spiegare una cosa. Fino a poco tempo fa, per motivi di legge, era obbligatorio tracciare l'utente con addirittura carta di credito, cioè poi si sono trovati altri sistemi. Oggi, diciamo, non è più obbligatorio, ma di fatto lo è, perché se succede qualcosa, ci spieghi bene come stanno le cose. Diciamo che c'è una sostanziale differenza tra l'obbligatorietà di identificare l'utente e la responsabilità di chi dispone della connettività. Quindi se in passato veniva obbligato il provider a identificare l'utente sistematicamente, quindi con carte di credito o addirittura registrazioni di persona, con l'abolizione del noto decreto, sia comunque nell'ambito della responsabilità di chi offre la connettività. Quindi chi dovesse compiere attività illegali da un determinato indirizzo pubblico... Quindi se io ho un bar, albergo, e ho il Wi-Fi, lo do gratuitamente ai miei clienti, non sono obbligato a tracciarli, certo. Ma di fatto è meglio che lo faccia. Beh, meglio, diciamo che nel momento in cui l'utente dovesse compiere attività illegali, il barista ne sarebbe assolutamente responsabile, sì. Ma questo addirittura quindi, prima del decreto. Sì, no? Certo, quindi. Cioè, quindi in teoria se io mi voglio prendere la responsabilità posso tenere il Wi-Fi aperto. Certamente. Certo, però certamente. Dice. Diciamo che a fronte di un vantaggio molto relativo si incorre nei rischi veramente molto gravi. Esatto. Allora, voi, io vi ho invitato, oltre che insomma, avete una bella realtà da raccontare, ma anche perché voi avete da qualche mese presentato una soluzione che favorisce, diciamo, una certa semplicità di connettività. Ne parliamo tra poco, dopo mi dica solo come si chiama questa novità. Si chiama Bubble 10, che si basa sulla SIM. Esatto. Per autenticare l'utente, e tra poco lo spieghiamo. Allora, per chiamarci in diretta, anche per dire la vostra sull'uso che magari fate del Wi-Fi in ambito pubblico, se secondo voi serve o non serve, se ad esempio le pubbliche amministrazioni devono o meno investire in questa tecnologia, su questo magari dirò qualche cosa anche io, se i ristoratori, chi ha un bar, gli albergatori devono darsi una svegliata e mettere Wi-Fi gratuito e performante che funzioni nell'hotel, così come c'è l'asciugamano e c'è il bagno pulito, ci deve essere il Wi-Fi che funziona. Numero verde 800 24 00 24, gli SMS 349 238 6666. Potete utilizzare anche Facebook e Twitter, e tra poco vado a vedere che cosa avete scritto sui social network. A tra poco. 2024. Le 16 e 16 minuti, stiamo parlando di Wi-Fi in ambito pubblico e anche di connettività in mobilità con reti 3G ancora oggi, e gradualmente, soprattutto nei prossimi mesi, quando si accenderanno le frequenze sugli 800 MHz e si comincerà a fare sul serio con il 4G, anche in 4G. Allora, Guerri, voi avete presentato questa soluzione che in qualche modo favorisce l'autenticazione del cliente che utilizza un hotspot Wi-Fi. Come funziona? Beh, diciamo che tutto nasce dalla constatazione che le reti Wi-Fi pubbliche, tipicamente accessibili gratuitamente, avevano sistematicamente appunto da affrontare il tema dell'autenticazione, e questo evidentemente disincentivava l'utilizzo delle reti, soprattutto per l'utente che cercava magari di connettersi in mobilità da una piazza, da un parco. Quindi l'idea fondamentale è stata quella di recuperare attraverso un'applicazione i dati della SIM, codificarli in credenziali valide per il sistema Wi-Fi, e quindi attraverso l'applicazione l'utente si trova collegato al Wi-Fi in maniera completamente trasparente, senza nessuna interazione diretta con il dispositivo. È chiaro che in questo modo la user experience ne ha degli enormi benefici, e di fatto il Wi-Fi diventa un sistema perfettamente fruibile come la rete mobile, e di conseguenza, per quelli che sono i primi numeri a cui stiamo assistendo in questi mesi, vediamo che c'è un grandissimo utilizzo, soprattutto nelle aree a maggiore densità di hotspot, di questo tipo di autenticazione, con un peraltro ulteriore e grandissimo vantaggio anche per gli operatori, che naturalmente in questo caso scaricano le proprie reti a favore del Wi-Fi, perché dove la disponibilità della rete esiste, effettivamente sì, più utenti possono condividere le stesse risorse. Sì. Quindi abbiamo fatto delle prime valutazioni e si parla di 30 giga al mese. Deve esserci una sorta di autorizzazione all'uso dei dati della SIM? No, ma i dati della SIM in realtà non sono utilizzati in senso stretto. Diciamo che noi tracciamo il numero di cellulare esattamente come avviene nel caso di autenticazione via SMS. Viene registrato al fine di eventuali indagini che dovessero riguardare qualcuno. Si automatizza una cosa che... Assolutamente. È solo una questione di automatizzazione. Inoltre vengono implementate alcune logiche per cui l'applicazione funziona come decision maker, quindi valuta se effettivamente in quel momento il Wi-Fi è la connettività migliore, se il segnale è sufficientemente stabile. Come dicevo prima, il paradigma è quello del always best connected. All'utente non interessa sapere dove è collegato. Diciamo in italiano? Sempre collegato alla rete migliore, più o meno. No, questo è un classico di questo mondo che parla sempre in inglese, poi quando ci troviamo alla radio dobbiamo cercare anche un po' di tradurre. Anche se io sono un sostenitore che dovremmo parlare quasi sempre in questa lingua, perché ormai è la lingua internazionale. Vabbè, nel nostro settore sì, abbastanza. Sì. Funziona solo sulle vostre reti. Allora, voi quanti hotspot avete in Italia? Dunque, noi abbiamo in questo momento più di 12.000 access point installati, che fanno riferimento a circa 2.000 aree, poco più. E la rete è abbastanza omogeneamente diffusa in tutta Italia. È chiaro che ci sono aree in cui storicamente gli hotspot sono in numero superiore. Però non è di fatto una questione mandatoria. Diciamo, questo sistema funziona solo sulle vostre reti? In questo momento sì, però chiaramente c'è la volontà di implementarla anche su altre reti. Quindi semplicemente io lo scarico sul mio smartphone Android. Benissimo. O malissimo, dipende dai punti di vista. Comunque, dal mio punto di vista. lo scarico sullo smartphone Android o sul tablet Android. Quando sono in presenza di una rete Wi-Fi del vostro network di Guglielmo, io clicco su un bottone e questo... No, non clicco nulla. Ah, non clicco nulla. Non clicco nulla. Basta avere l'interfaccia Wi-Fi accesa e lui si trova... l'utente si trova automaticamente collegato. No, ma io stesso mi trovo passeggiando per le città a volte collegato a delle reti nostre e non so neppure dove si trova l'access point. È un'esperienza secondo me molto interessante. Allora, rimane un altro problema, perché quando io cambio città o cambio piazza o cambio locale pubblico, albergo, e trovo una rete di un altro operatore, chiaramente devo rifare tutta la procedura. Ammettiamo anche che un altro operatore, adesso non mi risulta che in Italia ci sia una cosa analoga alla vostra, però ammettiamo anche che nasca una cosa del genere, io dovrei avere una seconda applicazione. Allora, ho sentito mesi fa parlare più volte di progetti per federare le reti, quindi creare una sorta di roaming tra reti Wi-Fi. C'è qualcosa in Italia o poco? No, ci sono sicuramente esperienze di questo tipo, anche noi ne facciamo parte, ma voglio dire, poi si cerca di collaborare con esperienze Wi-Fi già realizzate sul territorio che non ci vedono comunque diretti protagonisti. Sicuramente il tema della federazione riguarda comunque la necessità di inserire una password e condividerla su diversi sistemi di autenticazione, quindi dal punto di vista dell'esperienza dell'utente non è esattamente la stessa cosa. Parlando invece di accesso trasparente basato su applicazione, Babel 10 può essere implementato su qualsiasi rete Wi-Fi. Naturalmente chi la gestisce deve condividere le regole tecniche che ne consentono il funzionamento. Simone, a proposito di prestazione, questo è un tema interessante. Allora, facci un po' capire che tipo di prestazioni abbiamo poi sul campo con il 3G e in prospettiva col 4G. E visto che tu dicevi, a proposito di prestazioni, il Wi-Fi è un'alternativa molto interessante perché funziona meglio in molte condizioni rispetto al 4G. E diciamo che iniziamo a parlare del 3G, che è la tecnologia che oggi utilizziamo un po' tutti. Lo standard, diciamo, di riferimento, l'HSPA Plus, ha una velocità massima teorica, l'abbiamo già accennato prima, di 42 megabit al secondo e di 10 megabit in uplink, quindi verso la rete. E queste due velocità sono appunto puramente teoriche, quindi al di là del fatto che poi c'è un overhead di protocollo che poi riduce la velocità realmente sperimentata dall'utente, poi c'è il grande problema, come diciamo prima, dell'affollamento della rete. Quindi l'Ether è una risorsa condivisa, le celle a cui ci colleghiamo sono una risorsa condivisa e la velocità a cui noi navighiamo dipende da quanta gente, da quanti terminali, ormai è più giusto corretto dire, perché spesso anche una persona si collega con più terminali contemporaneamente, da quanti terminali sono collegati a questa cella. Quindi dai 40 megabit teorici, una buona esperienza per i miei test che faccio costantemente, una buona esperienza è quella di arrivare verso i 6-7 megabit, uno deve essere già contento. Cose che succedono quando la rete è particolarmente scarica o perché siamo in un'area non frequentata o perché ci sono degli orari in cui obiettivamente c'è meno pubblico della rete. Se invece noi andiamo verso orari e zone molto affollate, queste velocità scendono e scendono facilmente anche sotto il megabit, quindi torniamo a parlare di velocità non certo paragonabili alla vecchia rete 2G, però comunque velocità che rendono parecchie delle esperienze moderne di navigazione quasi impossibili, quindi fino a quando si tratta di messaggistica istantanea, mail, spiccia, ok, però certo che poi tutti questi bei servizi di cui tanto si pubblicizza, di cui tanto gli operatori si fanno vanto, tipo il cloud, lo streaming, come diciamo, multimediale, quindi mettiamo subito la nostra bella foto sulla bacheca di Facebook, sì, funzionano allora, molto rallentati. Spiegaci una cosa, c'è un problema di affollamento delle connessioni contemporaneamente, quindi in zone molto, molto frequentate, c'è un problema di cui gli operatori si lamentano molto, che è quello del traffico di segnalazione, perché molti di questi servizi chiedono, scambiano spesso informazioni con la rete, banalmente se io ho un servizio che mi fa vedere le quotazioni di borsa, ogni pochi secondi deve andare ad aggiornare i dati. C'è però anche un altro problema che ci fa solo accennare, perché poi se no la facciamo troppo lunga, alla rete in fibra ottica, cioè dipende anche molto l'antenna 3G e in prospettiva 4G alla quale noi ci colleghiamo, da lì come si va in internet? Sì, si va in internet come se fossimo su un bello stradino di campagna e poi entriamo con lo svinco autostradale nell'autostrada. Ora, il problema è che qua stiamo parlando di megabit al secondo, poi quando si comincia ad andare sul backbone, cioè sulla base dell'antenna per andare in internet, e poi andando sulle grosse direttive internet, anche lì c'è il grosso problema di come sta cambiando il modo di navigare. Ma io voglio che tu spieghi che se l'antenna è collegata sotto con ADSL... Sì, se è collegata con 10 megabit, il collo di bottiglia sono 10 megabit, quindi c'è poco da fare 40 megabit, perché il collo è questo. No? Sì. È un problema grave, perché anche le strutture centrali delle reti degli operatori stanno subendo questo cambio del traffico, cambio di tipologia, ma anche di volume. Ecco, in questo caso, lo facciamo dire a Zanardi, non a Guerri, che è coinvolto, poi magari se vuole commentare, il Wi-Fi è meglio? Wi-Fi è meglio perché è un modello di utilizzo tipicamente diverso e quindi, per esempio, ne parlavamo prima di iniziare la trasmissione, quando io sono in un albergo, per esempio, se ho 150 camere e queste 150 persone che tornano in albergo dopo la giornata si collegano tutti alla povera cella dell'operatore di telefonia mobile, e c'è un intasamento. Se invece la struttura Wi-Fi è ben dimensionata da chi l'ha progettata, è progettata per poter gestire 150 connessioni con una buona qualità. Sentiamo i nostri ascoltatori. Giuseppe che chiama dagli Stati Uniti tramite VoIP. Giuseppe, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno Giuseppe. Anzi, buon pomeriggio a voi. Sì, esatto, buon pomeriggio. Da dove chiama, visto che gli Stati Uniti sono tanti, sono 51? Io chiamo da Tampa, in Florida. Ah, pensa un po', stamattina stavo ascoltando una radio di Tampa Bay. I casi della vita. Io ascoltavo la vostra via internet. Casavate via internet, qui a Tampa, esatto. dal mio appartamento dove mi trovo, e sto parlandole attraverso un software che sta su iPad e con un collegamento wireless che ho in casa. E mi sembra che la qualità sia buona. Che cosa ci voleva proporre? Una domanda o una considerazione? No, volevo proporle praticamente la stessa considerazione che ha fatto ultimamente la persona che ha parlato prima di lei. Sempre di più, contrariamente a quello che dicevate in apertura di questo piccolo discorso, vedo persone che comprano strumenti diciamo informatici, non telefonini naturalmente, non smartphone, ma tavolette, che mancano completamente della scheda SIM, perché il sistema di collegamento Wi-Fi è molto più affidabile, molto più sicuro. Anche in Italia ormai quasi tutti gli uffici sono organizzati in questo modo, gli alberghi e molto più spesso anche le città, e l'uso della scheda SIM sugli strumenti diciamo tipo tavolette, li trovo e vedo che tutti quanti i miei colleghi li stanno usando sempre di più, abbandonando la schedina con l'operatore telefonico. Nonostante negli Stati Uniti si stia parlando molto e gli operatori stiano spingendo molto il 4G, mi risulta. Certo, ci sono manifesti dappertutto, Verizon o piuttosto che AT&T, che altri propongono il 4G, però in effetti poi se va nei negozi e va a comprare le tavolette, molto spesso la gente compra tavolette senza la SIM. Interessante. L'ho visto anche recentemente con dei miei amici che sono venuti qui e che hanno voluto comprare le tavolette negli Stati Uniti e che hanno comprato senza SIM, e loro usano la tavoletta in Italia. Sì. Giuseppe, grazie per aver chiamato e mi verrebbe da dire richiami altre volte, perché poi questo confronto, soprattutto in un paese che spesso, ma è ancora così, ci precede in molte cose, è interessante. A presto, buona giornata. Grazie di avermi ospitato, buongiorno. Grazie a lei. Sentiamo Giorgio da Savona, poi se volete commentare anche questo fenomeno che c'è. Giorgio da Savona, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Dunque, premetto che non sono nemico della tecnologia, ma ritengo di essere appassionato di tecnologia, però faccio presente un aspetto infrastrutturale. E in questo caso è tipo ambientale per non dire anche di diritto civile, perché nell'ambito dell'implementazione della rete, che sicuramente gli operatori commerciali avranno necessità di implementare l'infrastruttura, cioè quindi di installare dei punti radio LTE, perché sì, di mettere delle nuove antenne, sì per forza, perché anche se sono micropunti da qualche parte bisogna piazzarli. Sì. Faccio notare quello che è successo a settembre, che gli operatori che probabilmente con cui lei è collegato sapranno molto bene, la bozza del decreto sviluppo 2, quella che prevedeva appunto la digitalizzazione e ampliamento dell'informatica appunto nella nostra vita, prevedeva l'articolo 29 una cosa molto grave che stava passando inosservata, cioè non vorrei fare il pignolo, però diceva che il proprietario di un condominio, per quanto concerne gli immobili di proprietà, non possono opporsi all'accesso dell'operatore di comunicazione al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, quali cavi e fili, quindi che si parla di ponti 4G. Questa è una grave lesione del diritto privato, perché di fatto il tetto non era più tuo, arriva un signore con un pezzo di carta in mano e ti dice impianto un ponte radio. È una cosa gravissima, avrebbe dato adito a contenziosi. Che però è stata... Io sono uno di quelli che ha scritto una ventina di email all'associazione ambientalista, benché non sia un fanatico ambientalista, ripeto, sia tecnologico, però c'erano aspetti sociali, legali, sanitari, ambientali, paesaggistici, urbanistici, di tutti i tipi, non di meno appunto quelli della proprietà privata. Giorgio, adesso vi ritrovate di fronte, la domanda è come implementerete la rete dei ponti LTE? Purtroppo la domanda mi sa che la dobbiamo rinviare quando ci saranno gli operatori qui, che per il momento non si sbottonano molto, perché c'è tutto un dossier molto ampio di implementazione, che poi tocca anche il tema che lei ha toccato delle reti sugli 800 MHz, che è la parte della frequenza più interessante. Beh, questa è sicuramente una domanda che faremo, ed è una domanda importante. Non so qual è il punto di equilibrio, perché tutti gli utenti vogliono maggiore copertura, maggiore connettività, è un'esigenza di tutti, e gli operatori ovviamente, oltre che come dire, il mercato, se richiede una cosa l'operatore non vede l'ora di poterla offrire, anche perché c'è un business. Questo equilibrio è piuttosto difficile. Grazie di averci chiamato e grazie per averci sottolineato questo aspetto che terremo in considerazione. Simone, vuoi aggiungere qualcosa? Due cose rapidissime. Prego. Sui due interventi. Il primo, quello di Giuseppe, volevo solo dire, abbastanza d'accordo su quello che dice. Ovviamente il tablet è uno strumento leggermente diverso rispetto allo smartphone, si presta di più all'utilizzo nomadico che a quello mobile, quindi capita spesso che c'è un utente di tablet che lo usa al 90% in casa o in ufficio, e quindi chiaramente il wifi lì è più facile sia disponibile. Lo smartphone, oltre ad avere la SIM per motivi chiaramente telefonici, si presta più l'utilizzo in mobilità. Ultima cosa invece su Giorgio, il secondo ascoltatore, io ovviamente non posso entrare in aspetti che ovviamente aspetta rispondere gli operatori. Una cosa importante a livello tecnico c'è da dire che ci sarà sempre di più la tendenza a fare delle reti con le microcelle, cioè celle sempre più piccole, quindi reti sempre più dense, perché ci saranno sempre più utenti, perché poi l'LTE andrà a occupare anche le frequenze di 2,6 giga, che essendo più alte hanno meno penetrazione, quindi ne servono di più. Quindi, senza esprimere giudizi in merito, però devo dire che il problema delle celle sarà sempre più pressante. Sì, siamo qui, fatto bene a dirlo, anzi noi torneremo sull'argomento perché è un argomento estremamente interessante. E scusate se insisto, ma proprio il fenomeno che citi tu, cioè di avere tante microcelle, è un'ulteriore conferma che c'è bisogno di fibra ottica diffusa sul territorio, perché poi queste microcelle vanno alimentate con internet, perché poi arriva il cavo e serve il cavo. No, mi rilasciamo più alla telefonata dell'ascoltatore di Tampa. Ci sono dei dati che misurano quanto l'utente è sotto copertura wifi, e siamo dal 75% del suo tempo. Il vero tema, come dicevamo prima, è che molte di queste reti non sono facilmente accessibili. Certo. Cioè l'autenticazione è sempre complicato, magari sono reti private. Quindi il tema dell'autenticazione, parlando di wifi, è di nuovo centrale. Quindi tutta l'esperienza di cui parlavamo prima, autenticazione seamless, always best connected, va proprio in questa direzione. La rete wifi deve essere fruibile come la rete mobile, sì, altrimenti è sottoutilizzata. Tra poco abbiamo una domanda per Guerri che arriva da Andrea da Rimini, però adesso c'è un po' di pubblicità. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, stiamo parlando di reti che ci permettono di collegare il nostro smartphone, il nostro tablet in mobilità, sempre reti senza fili, che è, vorrei dire, uno dei pochi motivi per cui è necessario utilizzare le reti senza fili, perché sapete che io sono un grande stimatore del cavo laddove è possibile. Guerri A Guerri non piacerà molto. Non sono un integralista. Però, Guerri, c'è una domanda per voi che arriva da Andrea, che ci chiama da Rimini. Buongiorno, Andrea. Sì, buongiorno. Prego. E complimenti per la trasmissione. Grazie molto. Volevo fare una domanda perché io ho utilizzato il servizio Guglielmo quando è stato installato già tempo fa a Rimini, però ho notato, e anche perché ho provato anche a dialogare con l'assistenza, che il riconoscimento, una volta effettuata la registrazione password, username e password, è collegato al dispositivo, e questo secondo me è una limitazione, perché soprattutto in una città turistica uno passa con uno smartphone, si registra alla colonnina di Guglielmo, poi magari il giorno dopo passa con il tablet, magari perché deve decidere di fare uno shopping o altro, e io credo e la vedo come una limitazione. Ah, cioè lei dice, se io cambio dispositivo... No, esatto. Volevo chiedere se per caso questa problematica Guglielmo l'ha risolta, perché poi ci sono altri servizi che sono partiti anche prima, come Freeluna, in cui la registrazione con username e password consente di entrare con qualsiasi dispositivo, ma addirittura anche... ovviamente da una città all'altra, ecco. Sì, perché usi la PAS come tutti gli altri servizi. No, ma ci avevo pensato questa parte. Grazie Andrea, grazie. Certo, no, l'ascoltatore ha ragione. In effetti i dispositivi che si possono associare a una password sono tre, però stiamo parlando del sistema di registrazione tradizionale, cioè si vede che l'utente a Rimini, credo sì che ci siano diversi spot, abbia fatto la registrazione tramite SMS, quella tradizionale, come dicevo appunto giustamente, fanno anche altre società. Quando parliamo parliamo invece di autenticazione seamless, quindi basata su un'applicazione messa sul dispositivo, non ci sono limitazioni, ogni dispositivo può installare la sua applicazione e di conseguenza accedere alla rete senza nessun tipo di problema. Quindi naturalmente lo abbiamo mantenuto sul territorio la registrazione classica, anche sì. Perché abbiamo detto quali sono i metodi di registrazione per collegarsi alla rete Wi-Fi più utilizzati, al di là di quelli che utilizzate voi? Sì, beh, per quanto riguarda gli spazi pubblici direi che l'autenticazione tramite SMS la fa da padrone, quindi siamo oltre il 99%. Alcune realtà, quindi vuol dire che io arrivo in una piazza o arrivo in una biblioteca pubblica di metto il mio numero di cellulare su un portale, ricevo un SMS contenente l'username o password, poi ci sono alcune variazioni, ma sostanzialmente il metodo è questo, che fatto in mobilità e con un dispositivo tipo tablet o smartphone è una cosa sempre abbastanza complicata. Poi si va a sistemi di autenticazione più sofisticati, tipo quelli che vengono sviluppati negli alberghi, non so, con l'interfaccia sul gestionale dell'hotel, piuttosto che... Metto il numero della camera. Dalla mia camera metto il cognome, il numero della camera, sì. E autonomamente vengo autenticato e registrato. Sì. Parlando invece di pubblica amministrazione, ripeto, i sistemi sono più o meno equivalenti, quello che si sta cercando di fare è proprio bypassare il problema della limitazione sui dispositivi, ma soprattutto la rapidità dell'autenticazione, cioè l'utente non deve sapere di essere collegato in Wi-Fi, deve essere collegato al sistema più performante in quel momento. Sì, chiarissimo. Marco da Verbania, buongiorno, benvenuto. Sì, complimenti per la trasmissione, grazie per l'ospitalità. Grazie. Io ho una chiavetta USB, abito qui in Verbania e il mio collegamento è fatto con la 3 e vorrei sapere quando uscirà, quando faranno qui, metteranno le installazioni per la rete 4G, dovrò cambiare la chiavetta oppure... Sì. Oppure magari mi basterà un telefonino 4G quando sarà venduto, gli inserirò dentro la mia SIM e potrò far diventare il mio telefonino hotspot per collegare il collegamento a internet al mio computer desktop. Marco, sì, l'abbiamo sentita tutta la domanda, è chiarissima la domanda, diciamo che questa domanda ci farebbe fare una nuova puntata tutto su questo, però allora Simone Zanardi sa tutto su questo. Cercando di sintetizzare, sintetizza. La chiavetta deve buttarla via. Se non è già 4G, ma penso di no. Il telefonino 4G, sì, quello che dice è corretto, lo può usare come modem a due condizioni. Primo, che il piano che lei ha sottoscritto con l'operatore preveda la navigazione dal telefonino, se vuol navigare dal telefonino. Se lo vuole utilizzare come modem per collegarsi via tethering, come si dice, al PC usando il telefonino come modem, non vedo perché no. Ecco. Sì, senti, una volta una persona mi ha detto, ed è una soluzione alternativa, disse: io mi sono comprato tutti strumenti Wi-Fi e mi sono comprato un routerino, un piccolo modem che ha integrata la SIM, quindi il router si collega alla rete di terza generazione oggi, poi chiaramente con l'evoluzione al 4G cambiando il routerino, e crea un hotspot personale e io ho il telefonino, il tablet, quel che l'è. Sì, è una soluzione che è molto diffusa, sono questi appunto questi router che sono grandi meno di un pacchetto di sigarette, insomma come una carta di credito, un pacchetto di gomme da masticare. E diciamo che questi di fatto sono dei router che si collegano alla rete cellulare, sia 3G o 4G, e poi creano un piccolo hotspot, quindi ok, funziona, hanno anche la batteria, quindi non serve neanche il cavo di alimentazione. Chiaramente se il problema, ci siamo già posti, dell'affollamento si presenta con un dispositivo solo, crearci poi sotto anche una rete locale da dare accesso. No, diciamo però che questo tipo di tecnologia noi l'abbiamo ad esempio implementato, con tutti i limiti che hai detto e che sono assolutamente indiscutibili, sui mezzi mobili, ad esempio pullman. Sui pullman dove? Bah, adesso abbiamo recentemente attivato un impianto sul pullman che collega l'outlet di Fidenza, non facciamo pubblicità, magari sì, con il Fidenza Village, con l'aeroporto Linate, e quindi su questo pullman che fa una tratta per i clienti, è montato uno spot di fatto che viene alimentato con la chiavetta 3G dal punto di vista della connettività e offre a bordo il pullman l'accesso Wi-Fi. Interessante. Roberto da Modena, buongiorno. Non è caduta la linea. Quindi non ci abbiamo. Allora, Samuele Savoretti su Twitter, ci sono talmente tanti strumenti che a volte mi si incrociano. Allora, ci cita, mi piace perché è un buon utilizzo della radio, e qui la radio si vede che è superiore alla TV. Allora, ascoltare 2024, intanto navigare, verificare, approfondire gli argomenti trattati. Allora, verificare non ce n'è bisogno, qua abbiamo esperti che dicono la verità. E quindi insomma è un buon utilizzo della radio e anche della navigazione. Abbiamo recuperato Roberto che ci chiama da Modena. Buonasera, esatto. Prego. Buongiorno. Due domande molto basiche. Allora, la prima è questa. Io viaggio molto e anche all'estero, no? E allora mi chiedo, io utilizzo BlackBerry, ma quelli che vedo che utilizzano, ad esempio, l'iPhone, che è l'apparecchio di moda adesso, eccetera, ma con che cavolo di piani tariffari girano? Che io, che quando ho provato ad usare il roaming normale costa delle cifre pazzesche. In Arabia 2 euro al minuto, delle cifre enormi, no? Questa è la prima cosa per quanto riguarda la ricezione delle mail, eccetera. E secondo, chiedevo, c'è allo studio qualche soluzione per applicare dei sistemi wireless sulle auto in modo che anche viaggiando si sia sempre collegati? Bravissimo, questa è una bella domanda. Roberto, non so, forse quelli che hanno gli smartphone, non solo iPhone, ma anche tutta la serie Android, tutto Windows Phone, eccetera, eccetera, o c'è un sacco di soldi da spendere in roaming. Credo che sia così, eh. Esatto. Io personalmente credo che sia così. Oppure si collegano al wifi, non so. No, ma viaggiando, cioè il wifi quando sei fermo in un albergo, meno, ma altrimenti dove non c'è wifi, io mi chiedo, allora, lei è d'accordo con me che BlackBerry continua a essere l'unica soluzione valida per il momento? Per quanto riguarda la mail e la sicurezza, sì, della mail, sì. Le, okay, confermo, le confermo anche l'IT del Sole 24 Ore, che deve gestire un paio di migliaia di utenze, conferma che per quanto riguarda la sicurezza della posta elettronica, poi c'è chi dice ma chi se ne frega perché anche gli altri sono sicuri, vabbè, però finché non capita qualcosa, poi soprattutto per una grande azienda che deve gestire collegamenti di un certo tipo e che devono essere sicuri, questo rimane direi forse ormai l'unico asset fondamentale per RIM e BlackBerry. Adesso c'è la viabilità, riprendiamo tra poco perché immagino che vogliate aggiungere qualche cosa. 2024. Gli ultimi 10 minuti di 2024, prima il nostro ascoltatore faceva riferimento alla possibilità di mettere una connessione anche in automobile. Beh, si può fare la stessa cosa che avete fatto voi sull'auto, con il pullman. Sì, assolutamente equivalente. Quindi, ad esempio, se uno lo vuole fare in casa, cioè senza chiamare un'azienda che fa un sistema costruito sopra l'automobile, può mettere in auto, che ne so, nel posacenere, al posto del posacenere mette uno di questi strumenti, certo, che si collegano da una parte alla rete 3G e dalla parte opposta creano un hotspot all'interno dell'automobile. Certo. Allora devo dire che in Europa direi che ancora non ci sia nulla del genere. Negli Stati Uniti ho visto negli stand dei produttori di automobili, in modo particolare in quello di Chrysler, un sistema che fa la stessa cosa, però è già offerto all'interno della console dell'automobile e uno può comprare la connettività a bordo della macchina proprio da digitando, toccando lo schermo, quindi il display che c'è nella console dell'automobile. Si paga perché non è un servizio gratuito, però di autoconnessi abbiamo parlato. 2024 è un tema bellissimo, ne riparleremo, però abbiamo una puntata alla settimana, con calma. Simone, vuoi aggiungere qualche cosa e commentare? No, semplicemente faccio una chiosa finale sul tuo discorso dell'automobile. Si parla sempre di internet delle cose, chiaramente gli strumenti anche in auto non saranno più quelli di una volta tra poco, quindi l'autoradio sarà una cosa diversa probabilmente tra poco, e quindi l'esistenza di connettività anche in auto sicuramente ci sarà. Per quanto riguarda invece la domanda sempre di Roberto sul discorso all'estero, ci tengo solo a dire che è un po' banale dirlo, ma ci sono anche dei piani tariffari per l'estero, quindi se uno viaggia spesso all'estero, piuttosto che andare a fare la tariffa base, si può informare presso il suo operatore e ha dei piani dedicati alla navigazione dati dall'estero. Sì, ti faccio dire una cosa importante che viene contestata da molti ascoltatori. Allora, secondo noi ha senso che ci siano i tetti di traffico massimo per le connessioni dati in mobilità. Quindi quando tu hai citato il giga, i 2 giga, io ho 3 giga, ma insomma 3 giga si fanno fuori velocemente. Io sono molto parco, non faccio video stream, eccetera, eccetera. La radio, c'ho una radio con le cuffie FM, però Sì, diciamo che questa è la classica questione che si può vedere da una parte o dall'altra, no? Dalla parte dell'utente la limitazione del traffico è sempre una scocciatura, e da questo punto di vista, quindi da questa parte, devo dire, l'abbiamo già detto, un giga, tre giga saranno sempre più pochi. Avevo già accennato prima, le prime offerte 4G offrono peraltro un canone mensile nettamente superiore, 15 giga, adesso 15 giga sembrano tanti, in realtà tra poco, tra qualche mese, tra qualche anno saranno molto pochi. Però è anche vero, vedendola dall'altro punto di vista, cioè dal punto di vista della rete, che sicuramente deve fare dei passi avanti come backbone, fornire più banda a tutti gli accessi. Ma d'altro canto, in attesa di questa Next Generation Network che arriverà prima o poi, è anche vero che gli operatori devono tutelare se stessi e poi comunque anche il buon traffico da dare a tutti i propri utenti. Quindi il problema del tetto della banda, che peraltro si pone anche in fisso, perché non è che non si pone anche sulla linea fissa, perché insomma anche gli ADSL non è che viaggiano bene la sera a certe ore, sì, perché tutti sono collegati a internet, si pone sicuramente. Comunque, chi spera ancora che prima o poi venga offerto un piano senza limitazioni, diciamo a prezzi normali e popolari, perché ci sono, forse c'è qualche piano. Ci sono delle unlimited che poi in realtà non sono neanche unlimited, sì, pure. Giusto. Però sì, giusto, giusto. Questo è un atteggiamento degli operatori che non mi piace molto, quando dicono unlimited, non è limitato, ma poi in realtà dopo un giga ti abbassano la connettività a 32K, che è praticamente come non andare. Esatto. Ecco, a proposito di questo, sentite che cosa diceva nel maggio del 2010, un po' di anni fa, Lars Carlson di Telia Sonera. Telia Sonera è un po' come Telecom Italia in Italia per i paesi scandinavi. Quando siamo andati a vedere e soprattutto a provare la prima rete 4G che veniva lanciata a Stoccolma. I think there will always be a little bit of a mobility premium, so to say, so you always have to pay a little bit more for the mobile part. Penso che ci sarà sempre un premio di mobilità da considerare e quindi si pagherà sempre di più per una connessione mobile, anche se i prezzi si stanno allineando. I think it's one thing more that is important with the mobile access. C'è poi un'altra cosa importante da dire quando parliamo di servizi mobili. C'è una soglia di traffico mensile che vogliamo mantenere. And we will keep this model of volume based price. Perché l'etere è una risorsa scarsa. Questa è una delle parole d'ordine che vanno tenute in considerazione. Guerri, a proposito di wifi in luoghi pubblici più che le piazze delle città dei paesi, perché a volte la pubblica amministrazione pensa che ci si possa lavare le mani e si possa risolvere il tema della agenda digitale, della digitalizzazione, con un bel hotspot wifi, e chi si è visto si è visto, non è mica così, è un po' più complicato. Però invece parliamo di business, cioè un ristoratore o un albergatore, cioè dal vostro punto d'osservazione vedete che si è capito il valore di offrire una connettività, io penso che ormai debba essere gratuita e soprattutto performante, perché sono due concetti che vanno di pari passo, cioè. Sì, no, per quello che è la mia esperienza devo dire assolutamente sì, cioè, devo dire che anche con le ultime indicazioni che sono arrivate relativamente all'agenda digitale, devo dire che anche la pubblica amministrazione, secondo me, ha una consapevolezza diversa, no, del wifi, non solo come strumento per fare una bella comunicazione politica, ma perché effettivamente c'è una forte richiesta da parte dei cittadini. In ambito business io credo che questa consapevolezza sia ancora maggiore, almeno noi, almeno per quanto riguarda il mondo hospitality, ci rivolgiamo poi alla fascia top, no, degli hotel, quindi dove le prestazioni sono assolutamente importanti. Sono gratuiti questi collegamenti? Questo dal nostro punto di vista è a discrezione del proprietario dell'hotel. La tendenza è assolutamente ad aumentare la parte di hotel che offrono servizio gratuitamente, ma sì, molti ancora comunque. Senta, a chi ci chiede dove è finito il WiMAX? Ma questa parola all'inizio, no? C'è uno dei protocolli che sembrava dovesse affossare il wifi, ma il WiMAX è una realtà in Italia come in altre parti del mondo. Io credo che sia molto importante soprattutto per le zone che non hanno un'infrastruttura fissa come può essere un paese, cioè, occidentale. Si è trasformato, Simone, tu mi confermi, si è trasformato, allora, una delle promesse era quella di offrire collegamenti in mobilità piena, quindi con terminali WiMAX. I terminali WiMAX non sono mai arrivati e quindi è un sostituto della DSL dove non esiste il collegamento a DSL. Sta diventando un anti-digital divide, essenzialmente ha assunto questo ruolo, quindi un'alternativa alle connessioni in cavo, chiaramente dove c'è poca connettività via cavo. Sul fronte mobile sinceramente non penso che nessuno si offenda nel dire che è stato di fatto sconfitto tra virgolette dal 3G e dal 4G, insomma. Sì. Sì, no, ma infatti era. Sì, so che negli Stati Uniti esiste un operatore WiMAX, che tra l'altro particolarmente attivo nella zona meno popolosa. Hanno provato a lanciare terminali mobili WiMAX, ma Motorola. Sì. Ma sì, per sì. Loro stessa missione, insomma, non c'era economia di scala. Sì, quindi sì. Il progetto comunque è stato in abbandonato. Europa non mi sembra che ci sia nessuno stato dove. Beh, anche perché negli Stati Uniti passi, fai un'ora e mezza di macchina, due ore di macchina, non c'è connettività cellulare in certi posti, quindi lì ha senso. Farete anche la versione del vostro sistema di autenticazione tramite SIM anche per iOS? Noi abbiamo provato a lavorare con iOS, chiaramente in questo momento la risposta è no, perché per poter sviluppare un'applicazione di questo tipo, che da un punto di vista tecnologico è abbastanza complicata per tutta una serie di motivi, bisogna poter andare molto in profondità del sistema operativo, quindi Apple non lascia questa possibilità, quindi siamo focalizzati subito su Android. Windows Phone? Ci stiamo lavorando, le premesse non sono entusiasmanti, ma ci stiamo ancora lavorando. Bene, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Simone Zanardi, che è il nostro esperto di networking e di reti Wi-Fi, anzi sollecitateci perché questo è un tema molto bello. Simone lavora al laboratorio di PC professionale. Grazie, a presto e buon lavoro. Grazie, Enrico, alla prossima. E buon divertimento con le tue prove in giro per stazioni, autostrade, eccetera. Certo. Eccetera. E grazie anche a Giovanni Guerri per essere stato con noi in questa puntata di 2024. A presto, buon lavoro. Grazie e buona serata. E così concludiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo che se avete downloadato il file MP3 attraverso la piattaforma iTunes potete lasciare un messaggio, se positivo naturalmente è meglio, ci fa piacere, o se utilizzate qualsiasi altro sistema magari segnalateci quello che preferite. È tutto per questa settimana, ci risentiamo la prossima settimana sempre qui su Radio 24 o sempre sul sistema podcast di Radio 24 che vi offre settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ad Anita Panizza in redazione, Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica per questa settimana. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Mi trovate su Facebook o anche su Twitter, @e_Pagliarini. Appuntamento tra 7 giorni. 2024. 31 seconds and we're on for auto sequence start.